Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati cari amici radioascoltatori sulle frequenze di Blu Radio Veneto per una ennesima, anzi la terza puntata di Fuori di Noi ai microfoni. Betta, ciao Betta! E Christian! Benissimo, sei ritornata dopo una settimana. Sono ritornata, sì, perché era il caso che ritornassi, perché ho sentito già che ti sei troppo allargato la scorsa settimana, quindi era il caso che ritornassi qui per raccontare ancora il mondo degli oratori. Hai detto ennesima, sembra che qui insomma non finiamo più, invece no, è solo la terza puntata di questa nuova stagione. Sì, terza puntata di questa nuova stagione, sempre diciamo i soliti ingredienti, appunto, tranne ovviamente le nostre voci, che spero appunto siano piacevoli per chi ci ascolta. Ingredienti che sono quella dell'intervista appunto nell'oratorio, raccontare il mondo del circolo oratori padronati, targati, Noi Associazione, proprio in questo anno che anticipa di qualche mese diciamo il grande anniversario. L'abbiamo detto anche nelle prime due puntate, il 2012 l'associazione Noi festeggerà il suo 10° anno di vita, un anniversario importante non soltanto per ricordare quello che si è fatto, ma per rilanciare la proposta del movimento appunto degli oratori, che sta aumentando di anno in anno. Poi magari lungo il corso di questa terza puntata di Fuori di Noi, Betta, qui hai un foglio con tantissimi sì. numeri, e sono numeri freschi, e riguardando i numeri che sono stati anche pubblicati, ci sono anche tanti errori che abbiamo fatto proprio nella prima puntata, dicendo che siamo tot oratori, abbiamo tot associazioni, abbiamo tot tesserati. Abbiamo già sbagliato, ma noi appunto già alla terza puntata oggi siamo bravi a correggere. A correggere e appunto a ricordare, dati alla mano, appunto cosa vuol dire parlare della grande famiglia di Noi Associazione. Teniamo compagnia per circa 30 minuti, mezz'oretta, insieme sempre dalle frequenze di Blu Radio Veneto, il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30. Se volete contattarci, scrivete pure a Fuori di Noi @libro.it oppure inviate un sms al numero 320 61 46 964. È vero che l'intervista all'oratorio è un po' il cuore della nostra trasmissione, ma in realtà sono anche altre le interviste che caratterizzano la nostra trasmissione, ma sempre questo andare fuori dai nostri studi, sempre andare incontro a queste strutture, a questi luoghi che richiamano tanta gente e che insomma anche danno la possibilità di vivere esperienze particolari. Ricordiamo appunto che la nostra trasmissione è legata un po' anche al settimanale diocesano della diocesi di Treviso. Abbiamo ogni mese circa una pagina dedicata al mondo degli oratori, come ce l'ha appunto anche Padova, anche Venezia, e all'interno di questa pagina noi piacerebbe magari pubblicare qualche bella foto che voi appunto ci inviate tramite appunto l'email che prima Betta vi ha ricordato. Tu te la ricordi? Fuori di noi @libero.it. Quindi mandateci una bella fotografia, magari ci raccontate anche di che cosa si tratta, cosa rappresenta, noi provvederemo poi a pubblicare questa bella foto con una piccola didascalia. Quindi oltre a raccontare attraverso diciamo la voce, cercheremo di raccontare attraverso un piccolo album diciamo degli oratori. Possono tranquillamente arrivare, precisiamo, anche fotografie da Padova, da Venezia, da Vittorio Veneto, da Vicenza, da Verona, da qualunque parte appunto voi vi troviate all'interno ovviamente della regione Veneto. Avremo modo in queste settimane che appunto ci distanziano dal 2012 anche di raccontare, di prepararci a questi 10 anni, come hai detto tu. Probabilmente varie saranno anche le iniziative che i diversi comitati territoriali hanno in campo proprio per ricordare questo decimo anno. Ricordiamo un po' anche la tessera di quest'anno, che appunto vuole ricordare questi 10 anni, come sì fatta. L'hanno riassunta bene, l'hanno fatto già vedere ovviamente nelle varie assemblee dei territoriali. È una tessera che al cui interno diciamo ci sono tutte le 10 praticamente immagini, le 9 immagini appunto che hanno preceduto il 2012. Quindi se qualcuno appunto non si ricordava qual è stata la prima tessera del Noi, e se lo ricorderà appunto avendo in mano la tessera del 2012, e anche questa è un'occasione appunto per ricordare quanti passi avanti si sono fatti e come l'associazione ha percorso questo cammino e ancora sta diciamo creando e crescendo insieme. Dopo questo cappello introduttivo, così vogliamo lanciare prima canzone per poi addentrarci nel vivo, perché abbiamo un ospite con noi e quindi insomma è il momento di tagliare corto ora. E lanciamo, l'hai scelta tu? Assolutamente sì, con la collaborazione della regia di Eddie Daici. Prima canzone, Max Pezzali, vai! Quello che comunemente noi chiamiamo amore, forse non è altro che un paradosso, un'illusione, qualche cosa qualcosa di cui tutti hanno sempre scritto, senza veramente mai sapere come fosse fatto. Anche perché guardo fuori e fuori non ce n'è. Un milione di persone, però lui non c'è. Universi separati con le cuffie nelle orecchie, persi in una collettiva solitudine. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere. Qualche parola di una poesia o di una canzone, forse è solo un meccanismo che ci scatta dentro, solo un istinto che però chiamiamo sentimento, come quando ti ho sentito avvicinarti a me. Sembra un po' più semplice. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che torniamo in studio dopo la prima canzone di Max con Pezzali. Con noi Max Pezzali era qui. Sì, poteva sembrare che fosse qui vicino a noi, qui vicino a me, invece appunto io l'ho lanciato e ho detto vai Max Pezzali. Ecco, effettivamente diciamo la verità, per onor di cronaca, Max Pezzali non è qui con noi, è magari con lo spirito, con lo spirito, sì, della canzone, voglio dire questo, non l'avevi capito? Sì, sì, l'avevo capito. Comunque per chi si fosse sintonizzato solamente ora sulle frequenze di non Blu c'è Radio Max Vento, Pezzali, diciamolo subito. No, siamo sempre a Fuori di Noi, il contenitore radiofonico che vuole raccontare il mondo degli oratori, puntualmente il sabato alle 14 e la domenica alle 12:30. L'abbiamo annunciato prima della canzone, oggi non abbiamo un oratorio protagonista, ma con noi abbiamo Don Fabio Mattiuzzi, che è il presidente di Noi Venezia. Chiediamo a Don Fabio se è qui con noi. Don Fabio, ci sei? Ciao a tutti. Ciao Don Fabio. Allora Don Fabio, noi alla prima puntata appunto abbiamo detto, visto appunto questa in particolare ricorrenza e per riprendere diciamo questo collegamento radiofonico, ci sarebbe piaciuto intervistare e contattare appunto tutti i presidenti territoriali un po' della nostra regione del Veneto. Abbiamo iniziato ovviamente in casa con Don Bernardo e appunto adesso ci sei tu, Don Fabio, anche perché da qualche settimana fa avete presentato diciamo già l'anno 2012, avete penso fatto questa conferenza di presentazione a questa assemblea. E allora raccontaci un po', Don Fabio, cosa avete detto in questa occasione, in questa serata, a tutti i vostri circoli, a tutti i vostri volontari? Beh, è una serata un po' particolare perché nella nostra assemblea avevamo anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Nuova Venezia, perciò era anche un incontro un po' programmatico a lunga scadenza, e la cosa più bella che siamo detti è quella di riuscire fondamentalmente ad avere un piccolo rinnovo all'interno del nostro consiglio, ad avere anche magari persone che in qualche maniera possono staccarsi un secondo dai vari circoli per poter dare un po' di mano, linfa vitale al Nuova Venezia, che vorrebbe essere, per quanto è possibile, più positivo nei prossimi anni, anche mettendosi a disposizione, magari anche mettendo a disposizione materiale, qualcosa e chi più ne ha più ne metta, ecco. Anche perché Fabio, l'importanza è sicuramente il presente, ma noi appunto stiamo già pensando un po' al futuro, quindi il ricambio, diciamo, anche di consigli, il ricambio appunto di persone nuove dà sicuramente anche una freschezza, diciamo, alla proposta che è quella dell'oratorio, che però appunto mi pare anche dai numeri che hanno pubblicato sul settimanale diocesano di Padova, La Difesa del Popolo, sono numeri importanti, cioè gli oratori, le realtà territoriali sono in continuo aumento, e questo riguarda anche la tua realtà di Venezia, Don Fabio? Noi abbiamo avuto una crescita per tutti gli anni da quando io sono entrato a far parte del Noi nel 2003, ok, e quest'anno abbiamo avuto una più di stasi per alcune problematiche interne ad alcuni circoli che adesso abbiamo anche fatalità, per fortuna anche ripreso, perciò considero che però i vari circoli che abbiamo sono molto più stabili, e ten conto che penso di aver detto anche Don Bernardo, sono stati 2 anni molto duri per la nostra situazione, per mettersi in regola con questo, con quest'altro, con quest'altro ancora, e perciò diciamo che la parte burocratica ha frenato un po' l'entusiasmo di alcuni. Adesso l'abbiamo messo un po' a posto, mi pare che si stia tornando un pochettino al proporre. Dirti, noi mettiamo dentro consiglio una ragazza di 26 anni, perciò meglio di così. Eh sì, anche perché appunto già la presenza appunto di una giovane potrebbe essere anche l'occasione poi coinvolgere, magari non all'interno del consiglio ma esternamente, altri gruppi di giovani che propongono appunto delle iniziative che poi vanno, diciamo, a essere realizzate a livello appunto territoriale, non soltanto appunto di circolo ma per tutta la diocesi di Venezia. Infatti adesso noi saremo inseriti dentro l'organizzazione della festa dei ragazzi, la festa dei giovani di Cesana, perciò già qui saranno due sfide. Quando ci saranno questi appuntamenti, queste occasioni di incontro? Il 12 febbraio con la festa dei ragazzi delle medie della diocesi e poi il 6 di maggio con la festa dei giovani, ecco. Tutti e due del paraturismo di Jesolo. Ah, ho capito. C'è anche sempre sul settimanale appunto di Padova, ma penso anche che sia stato riportato in parte anche sul settimanale di Venezia, che è Gente Veneta, se non sbaglio, sì, sì. Che c'è un appuntamento anche importante, mi pare sabato, sabato, per quanto riguarda appunto l'Assemblea Nazionale. Anche questa è un'occasione appunto per rivedere in 10 anni cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare. Tu pensi, per esempio, Don Fabio, che la realtà di Noi Associazione, parliamo adesso di 10 anni di vita, deve essere rilanciata sotto alcuni aspetti? C'è qualche settore che secondo te ha nell'idea un'enorme potenzialità, ma è ancora stata un po', come posso dire, inespressa, un po' soffocata da altre, come dicevi tu, sì, appunto, sì, negli ultimi 2 anni? Tutta la parte pastorale. Ah, ho capito. Ne abbiamo parlato anche ultimamente con il consiglio del Noi Veneto, e abbiamo detto che se qualcuno di noi dovesse entrare dentro, questo è stato, ecco, che tutti abbiamo un unico intento, cioè far sì che adesso, dopo essersi ben costituito, il Noi cominci veramente a pompare fisso a livello pastorale, dia veramente anche sussidiazioni, stimoli, idee, circoli, possibilità di gemellaggi, di concretezza, anche proprio di materiale che si può avere, ecco. Perciò questo aspetto diventa necessario, diventa primario, anche perché se come ci sono le prospettive andassero a remengo alcune facilitazioni per le associazioni nei prossimi anni, noi dobbiamo avere un nostro imprinting che non è solo legato ai privilegi delle associazioni, ma che ha una connotazione che vuole far sì di entrare in maniera bella ed ecclesiale all'interno delle nostre realtà, ecco. Don Fabio, ritornando alla tua realtà, alla realtà di Venezia, quali sono i progetti che appunto Noi Venezia ha in cantiere per il prossimo anno? Guarda, ti dico, intanto quello di essere più vicino ai circoli, a livello umano anche, proprio come consiglio, come io personalmente come presidente, perché ho visto che solamente quando si riesce a scambiare faccia a faccia le cose, i problemi che sembravano insormontabili saltano, ecco. E dopo anche la disponibilità del Noi Venezia di aiutare le iniziative che partono dal basso. Perciò ancora una volta è stato detto, tutte le cose che partono dal basso e hanno una implicazione ecclesiale, cioè vanno anche a inserire altri cicli e così via, sono i benvenuti, benedetti a Noi Venezia, che per quanto può dal suo porto. E poi anche abbiamo fatto una scelta ultimamente molto forte per noi, che siamo molto molto piccoli, ma abbiamo anche fatto una scelta non di struttura, non di materiale, ma abbiamo puntato sul materiale umano. E perciò da poco, da maggio in poi abbiamo un nuovo addetto della segreteria, che è Alberto, che è a disposizione tutti i giorni, lunedì e venerdì, per i circoli tutti i pomeriggi. Perciò per noi è un investimento molto molto grosso, ecco. E quindi speriamo anche di conoscere appunto il nuovo responsabile appunto della segreteria di Noi Venezia, che ci informerà magari appunto mensilmente di tutte le iniziative che state un po' portando appunto realmente nei circoli affiliati a Noi Venezia. Poi allora, sai una cosa, sì. Noi Venezia è una cosa un po' particolare, perché praticamente si occupano di tutti i patronati, anche quelli non associati, cerca proprio di collegarli e così via, e anche si offre di dare alcune indicazioni. Perciò ad esempio con la pastorale Sport e Bolibro c'è tutto il discorso della Reyer, della squadra di Serie A e così via, e già in queste prime partite abbiamo già portato ben 4 circoli patronati a vedere le partite. Perciò stiamo muovendoci anche con le altre realtà ecclesiali, proprio per diventare anche noi sempre più riconosciuti in realtà ecclesiale all'interno della nostra diocesi. Benissimo Fabio, c'è ancora una chicca, ma vogliamo appunto mandare adesso un altro momento musicale, una chicca che abbiamo scoperto, che io ho scoperto su YouTube, e magari poi proviamo magari a ricordarla. Allora mandiamo Beyoncé con Hello. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Torniamo dopo questo secondo momento musicale a un po' alla conclusione di questa trasmissione, ma abbiamo sempre in linea Don Fabio Mattuzzi, prima di presidente appunto di Noi Venezia, prima di lasciarci con questo brano. Avevo detto che avevo scoperto una chicca, anche chicca. Tu l'hai scoperta. Sì, l'abbiamo proviamo scoperta. A chiedere se lui sa qualcosa di più. Navigando su YouTube, insomma, si è scoperta questa cosa. Abbiamo da poco lasciato l'estate, ma in realtà c'è qualcuno che sta già pensando all'estate 2012, vero Don Fabio? Già. Di che cosa si tratta allora questa chicca che si può anche vedere e sentire su YouTube? Allora, praticamente abbiamo già scelto le tematiche del prossimo Grest, abbiamo già scelto la protagonista e quest'anno, chicca su chicca, per la prima volta avremo una protagonista femminile, perciò il primo Grest della storia con una protagonista femminile, e di questo mi mi piace moltissimo come spunto. E Stella sarà il titolo del Grest del prossimo anno e sarà liberamente, ma ripeto, liberamente, ma sottolineo molto liberamente, tratto dal libro di Esther. Ecco. Ma Don Fabio, allora concludendo dico questo, io mi ricordo una volta in Grest che arrivava appunto il cartonato, il librettino, arrivava magari un mese prima dell'inizio del Grest, allora tutti quanti leggi, fai, briga, prepara laboratorio e così via. Adesso mi sembra che stiamo andando verso quasi la presentazione di grandissimi eventi a livello, diciamo, mondiale. Di solito si preparano 2-3 anni prima, Olimpiadi, Mondiali, eccetera. Mi pare che il Grest stia andando verso questa direzione, cioè addirittura noi oggi siamo appunto i primi di novembre, ma so che il video è già, diciamo, online da qualche settimana, quindi già da ottobre. Voi avete già scelto la storia, state già, diciamo, preparando un po' di attesa, un po' di clima, appunto di sorpresa per il Grest del 2012. Questo, allora, secondo te, Fabio, fa capire quanta importanza può avere, diciamo, questo momento per tutti i nostri, diciamo, le parrocchie, le comunità, o anche il fatto che adesso preparare un Grest per preparare un buon Grest e avere una buona risposta anche ci vuole molto tempo e bisogna partire molto molto prima anche per, diciamo, curare ogni minimo particolare. Ci vuole tempo perché le tutte le persone che danno una mano in maniera volontaria hanno anche altri impegni, ci vuole cura, ci vuole pazienza, ci vuole comunicazione. E poi, se posso dirti una cosa, Dimmela Fabio. C'è un'aspettativa morbosa ogni volta, perciò attenzione, state attenti su YouTube perché fra poco faremo un canale, state attenti su Facebook, abbiamo anche la pagina Facebook, state attenti perché pian pianino cominceranno sempre a venire fuori alcune cosettine e vi sorprenderemo quest'anno a livello mediatico, perciò attenzione che arriviamo. Starò attento anche ai telegiornali, allora sì. Fabio, va bene? No, no, quello no, perché sennò mi avranno arrestato per un altro motivo, ma lasciamo perdere, prendiamo una coperta pelosa e lasciamo perdere. Fabio, ti ringraziamo tanto invece per essere stato qui con noi in questa puntata di Fuori di Noi, ti auguriamo ogni bene per noi Venezia e quindi sentiremo gli aggiornamenti attraverso appunto la nuova segreteria, il nuovo potenziamento umano che mi pare appunto si chiami Alberto. Che salutiamo, non conosciamo ancora, che ci aggiornerà appunto sulle bei progetti, le belle iniziative che proporrete a tutti i vostri circoli oratori. Certamente, grazie a tutti. Grazie ancora, ciao Fabio. Bene, allora abbiamo ascoltato dalla voce di Don Fabio Mattiuzzi la realtà di Noi Venezia, la scorsa settimana un circolo di Noi Treviso, 2 settimane fa il presidente di Noi Treviso, Don Bernardo Marconato, ed ora siamo arrivati a Venezia. Nelle prossime settimane so che insomma ci sposteremo e quindi anche la realtà di Padova sarà il oggetto e protagonista nella nostra trasmissione. L'obiettivo è quello di muoverci nei territori, se non riusciamo appunto fisicamente ma ci andremo appunto in tante belle realtà, speriamo appunto di avere un contatto telefonico. Questo anche perché, non soltanto per ricordarci appunto che gli oratori sono importanti, sono un'occasione, un punto di riferimento in tutte le comunità, ma anche per vedere con quale originalità, con quale creatività a Padova, Venezia, Treviso, ma ricordo anche Vittorio, Veneto, Vicenza, bellissima realtà anche quella di Verona, anzi quella di Verona appunto, Betta, è la realtà anche più numerosa perché guardando appunto i numeri, prima parlavamo di numeri, abbiamo detto che c'è un articolone con tutti i dati, beh, Verona, il comitato territoriale di Verona ha circa 85.000 tesserati, più di 85.000 tesserati. Io non so voi, ma questi sono numeri, sono dati e vuol dire è praticamente la popolazione di una grande città, certo. 85.000 persone che hanno aderito, come diceva prima Don Fabio, ad un progetto, non soltanto come posso dire, ad un ideale, ad un progetto che è fatto di attività, di persone, di volontariato, di gratuità. Quindi stiamo parlando di cose serie, cose che coinvolgono le persone, bambini, adulti, famiglie che vivono all'interno di una comunità o di un paese. E questo, diciamo, è il nostro sogno. 25 minuti ogni settimana, ricorda quando? Il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30. Prima di lasciarci volevo solo così condividere con voi radioascoltatori un dépliant che c'è arrivato dall'Oratorio San Giorgio di Quinto di Treviso. Il titolo è L'Oratorio di Idee e qui dice: a noi piace vivere in un mondo dove l'altezza non conta e il nostro metro sono l'amicizia e la fratellanza. Racconta un po' perché andare in oratorio l'oratorio quando fuori c'è di meglio, ma in realtà ecco, nell'oratorio si possono scoprire tante iniziative con uno stile attento e solidale, e soprattutto scoprire come la misura dell'amore sia il dono. Quindi ringraziamo anche l'oratorio San Giorgio di Quinto di Treviso per averci dato questo dépliant, così vi abbiamo fatto conoscere anche che cosa vuol dire un po' vivere in oratorio. E tanto perché hai citato l'oratorio di Quinto di Treviso, diciamo appunto che sarà la sede ufficiale già confermata, già definita, il 15 aprile 2012, anche noi come il Grest partiamo molto in anticipo, della festa territoriale di Noi Treviso Associazione, che festeggerà i 10 anni di vita. Pronti, perché su YouTube arriverà anche qui un filmato che lancerà questa festa. Ecco, Fabio ci ha lanciato un'idea e tutta l'organizzazione del Grest 2012, chissà mai che non riusciamo anche noi a creare, non dico un canale, ma magari una piccola finestra su questa festa molto in anticipo rispetto al previsto. Ringraziamo il nostro regista Eddie Daici, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, scrivete a fuoridinoi@libero.it e sintonizzatevi sabato alle 14 e la domenica alle 12.30. Viva gli oratori, alla prossima settimana! Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.